La magia delle polpette, l'hai fatta, che cosa è? La magia delle polpette, dunque la magia delle polpette è una fattura d'amore, un filtro d'amore, si cucinano delle polpette di carne. Carne ovviamente. Tritata normale. Carne tritata normalissima. Col pan grattato e l'uovo solo carne? Carne e uovo ovviamente, certo, uovo, sì. Poi se uno vuole ci mette il pan grattato, se le fai al sugo non senza pan grattato. E la cosa carina era che bisognava, dopo aver preparato queste polpette, spargerle diciamo sul corpo, e il libro raccomandava che fossero ben presenti gli umori, diciamo, gli umori della donna andavano, diciamo. Sì, però sua fammi capire, le polpette erano già cotte col sugo? No. Crude prima di cuocerle. Ah, quando sono ancora rosse? Ancora rosse, vanno passate sul corpo impegnandole bene degli umori. Cioè con le ascelle sudate, esatto, cose. Possibilmente. Più umori vengono, più la fattura riesce. Dopodiché impegni per bene dei tuoi succhi privati queste polpette. Esatto, poi... tutto questo ovviamente recita il libro, che va fatto quando l'uomo è presente nella casa. Vabbè, se non chiama l'ambulanza, cioè l'uomo assiste a questa cosa? No, l'uomo no, e questa è la tragedia, perché quando lo feci io dovetti rinchiuderlo in una stanza con una scusa, e si guarda, aspetta un attimo qui... Presi queste polpette in cucina, fece tutta questa ambaradana abbastanza anche di fretta. Cioè tu ti sei ignudata e ti sei cosparsa di polpette. Esatto, ero piccola, ero molto giovane, ero adolescente, è perdonabile questa cosa. E dopodiché la cosa più allucinante, dovevo andare per 9 volte, diceva, da una fonte all'altra, quindi io andavo dal rubinetto della cucina al rubinetto del bagno, recitando una frase che diceva che tu, tizio Caio, possa non dormire più, pensare solo a me ogni minuto del giorno e della notte, eccetera, eccetera. Questo per 9 volte, andando con questo vassoio da una parte all'altra. Però devo dire che è riuscita.